Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9:09, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. La mail vivavoce@radio24.it. Con l'ideale slogan "soldi a chi li merita", una quarantina di sindaci ieri hanno sfilato a Milano e in testa c'era il sindaco di Milano, Letizia Moratti, che sabato tra l'altro ha scritto anche una lettera col presidente della regione Formigoni, quello della provincia Penati, dunque un'alleanza politicamente bipartisan, una lettera appunto a Berlusconi per chiedere un incontro urgente e dire sostanzialmente basta soldi a quegli enti locali, comuni, province, regioni che sprecano risorse, usano male i soldi pubblici, magari vanno in dissesto e poi chiedono soldi allo Stato. Insomma, soldi solo per chi li merita, dice la Moratti. Ancora una volta a creare polemica sono, ricordate, vi abbiamo dedicato puntate, quei soldi dati a Catania, comune in grave difficoltà, i 140 milioni, o al comune di Roma che ha preso 500 milioni, oppure, dice Formigoni, anche i soldi che arriveranno per sanare il buco della sanità della regione Lazio. La Moratti dice: noi siamo un comune virtuoso, ora saremo costretti ad aumentare le tariffe ai cittadini. Il Nord rapinato, titolava addirittura Libero due giorni fa con un'intervista a Formigoni che proprio tuonava: basta con queste regalie, noi in Lombardia tiriamo la cinghia e i soldi vanno altrove, così non si può più andare avanti. La rivolta dei comuni virtuosi, parliamo di questo oggi, che ne pensate? Voglio salutare il sindaco di Verona, Flavio Tosi, della Lega. Buongiorno sindaco. Sì, buongiorno a voi. Così come saluto Luigi Nieri, che è l'assessore regionale al bilancio della Regione Lazio. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. E buongiorno, saluto Gaetano Riva, che invece è l'assessore al bilancio e finanze del comune di Catania. Benvenuto assessore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, la rivolta dei comuni virtuosi, prima di iniziare darò anche qualche cifra, giusto per ragionare, qualche numero presi dal Sole 24 Ore. La rivolta dei comuni virtuosi, 800 24 00 24 per intervenire in diretta, gli sms 349 238 6666. Sapete quanti sono i comuni andati in dissesto dal 1989? Sono 433, il più grande è stato Napoli, che tra l'altro rischia di finirci nuovamente. Il 55% degli enti dissestati si trovano in Campania e in Calabria. E sapete quanto ammonta il debito attuale dei 1800 comuni che hanno i conti in rosso, quello complessivo? 47,3 miliardi di euro. Negli ultimi due anni, lo sapete, sono stati erogati dallo Stato 810 milioni agli enti in difficoltà, i casi più clamorosi, 150 milioni a Taranto un paio d'anni fa e quelli recenti, 140 milioni a Catania, 500 milioni al comune di Roma. Sindaco Flavio Tosi, fa bene secondo lei, fanno bene Moratti, Formigoni, Penati a dire basta regalie, il Nord si deve in qualche modo ribellare? Ma diciamo, c'è una questione di merito e una questione politica. Quella di merito che fanno bene, anzi, che ci sia questa trasversalità, perché forse è la volta che si riesce tutti insieme a cambiare le cose. C'è una questione politica, perché bisogna dire meglio tardi che mai, perché è anni e anni e anni che noi come forza politica, come Lega, segnaliamo questo tipo di storture. E finalmente adesso anche altri, ma ripeto, io sono contento che comunque si allarghi questo fronte. C'è un problema, il problema per esempio qual è? Che a Catania, al di là dei 140 milioni che sono arrivati, il problema è che l'ex sindaco di Catania, e parlo come centrodestra perché oggi è un parlamentare del centrodestra, il problema è che oggi è un parlamentare del centrodestra, cioè chi ha contribuito a mandare in malora il comune di Catania creando un buco che non ha precedenti nella storia di quelle dimensioni, oggi è stato, fra virgolette, premiato e promosso a parlamentare. Guardi, lei parla di Umberto Scappagnini, che è stato nostro ospite una settimana fa. Effettivamente, insomma, si è un po' arrancava un po' dicendo cifre, facendo giri di parole, però lui dice non è stata colpa mia, c'è un'inchiesta, chiarirò tutto. È colpa del Padre Eterno. Il problema è che Scappagnini sarà uno dei parlamentari che dovranno parlare di federalismo ed approvarlo e pensare che chi ha gestito il comune di Catania in quel modo oggi vada ad approvare una riforma federalista. Ecco, per quello spero che si allarghi il fronte anche ad altre forze politiche in maniera trasversale, perché altrimenti la vedo dura. Quindi secondo lei un altro problema, nel problema è che di quei 433 comuni dissestati, a me non risulta che ci siano state tante, non so, condanne o inchieste che hanno portato a chi ha maneggiato i soldi pubblici a delle eventuali pene. Ma guardi, io come sindaco, se sbaglio a spendere 1.000 euro, mi salta addosso la Corte dei Conti, se non l'altra magistratura, ma la Corte dei Conti di sicuro. Ci sono delle regioni del nostro paese dove per anni e anni e anni la magistratura contabile e anche la magistratura ordinaria hanno guardato per aria, non rendendosi conto, non volendosi rendere conto di come venivano spese le risorse pubbliche. Dopo è chiaro che lì c'è una questione di criminalità organizzata, di collusione con poteri mafiosi e quant'altro, che hanno dimostrato la loro forza anche recentemente, purtroppo, e quindi si capisce il motivo di certe situazioni, Catania compresa. Mm. Senta, sindaco, dal suo linguaggio lo scontro nord-sud c'è, insomma, mi pare di capire, su questo tema. Ma non è questione di nord-sud, è questione di una parte della classe politica del sud, perché i cittadini del sud, io vado spesso al sud, sia anche per le ferie, ma anche proprio per motivi politici, sono stato anche a Catania, eccetera. La gente del sud ha veramente le tasche piene di essere rappresentata, non parlo di tutte le regioni perché poi anche lì ci sono differenziazioni, sia tra varie regioni, sia all'interno delle stesse regioni, perché in Sicilia la situazione della parte occidentale è ben diversa da quella orientale. Però dicevo, il problema è che la gente del sud è stufa agra e anzi non vede l'ora probabilmente che le cose cambino. La classe politica, una buona parte della classe politica del sud, che invece è stata eletta grazie a meccanismi assistenziali, clientelari, che sono il contrario del federalismo perché sono quelli che vivono alle spalle del federalismo, e il problema è quello, quindi non è un problema di nord-sud, è un problema di nord, classe politica del nord, contro una parte della politica del sud, perché i cittadini del sud non hanno tutto l'interesse a che i trasporti pubblici, anziché la raccolta dei rifiuti, anziché la sanità, che funzionino come da noi. Ripeto, è una buona parte della politica del sud che sarà l'ostacolo a questo cambiamento. Ma tra poco ci arriviamo alla questione del federalismo, anche perché da questo punto di vista ci sono state delle critiche proprio anche alla Lega, o qualcuno le ha lette così, da parte dei per esempio Formigoni, Penati e Moratti. Magari da Penati si può capire, essendo del Partito Democratico, da Formigoni e Moratti, essendo della stessa coalizione di governo, un po' meno. Io però vorrei andare per un attimo dall'assessore Nieri, voglio ricordare, al bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione della Regione Lazio, perché Formigoni ha anche detto, oltre a Catania e al Comune di Roma, non contiamo poi che alla Regione Lazio, dice Formigoni, in extra deficit sanitario sono stati sbloccati 3 miliardi di euro a fondo perduto, che si aggiungono ai 5 miliardi già concessi dal governo Prodi, una quantità di denaro impressionante, così non va più bene, non torna. Allora, assessore Nieri, perché lo Stato dovrebbe, e tutti noi quindi, accollarci il debito sanitario? Non ne facciamo una questione politica di chi è la colpa, voglio dire, ma è il principio che ci deve spiegare. Diciamo, se non c'è una premessa è complicato spiegarlo, lo diceva anche il sindaco Tosi, che saluto. È evidente che ci sono stati negli anni degli atteggiamenti poco virtuosi che hanno creato dei danni enormi. La Regione Lazio, noi quando siamo arrivati qui, nessuno sapeva che c'era un debito enorme nascosto nei bilanci delle ASL, che non venivano da anni approvati. Noi abbiamo fatto il lavoro che non era stato fatto in questi anni. Intanto abbiamo fatto proprio con grande attenzione abbiamo riportato trasparenza nei conti, e purtroppo portando trasparenza nei conti e approvando i bilanci delle ASL è emerso questo enorme debito, 10 miliardi. Dopodiché abbiamo aumentato purtroppo le tasse ai cittadini, perché questo è stato un obbligo di legge attraverso il piano di rientro, abbiamo appunto firmato un piano di rientro e stiamo rimettendo anche i conti della sanità a posto, per cui è evidente che comunque siamo una parte dello Stato, così come lo sono i comuni. Nel momento in cui ci si rimette in linea, si sta attenti agli sprechi, si eliminano gli sprechi, si contengono i costi, è evidente che non si può mandare fallita una regione importante come la Regione. Però voglio dire, lo sfogo di Formigoni, lo colga come uno sfogo, se vuole, comunque un appello a dire basta. Lei come lo vede? Lei è dalla parte di quello che deve sperare che arrivino dei soldi, ovviamente. Però, sì. Capisce anche da parte di chi magari ha i conti a posto a dire basta? Ma Ma io capisco il presidente Formigoni, ma so anche che il presidente Formigoni sa che cosa significa per una regione fare delle cose come stiamo facendo noi, come ad esempio chiudere alcuni ospedali, tenere assolutamente sotto controllo i conti delle ASL, per cui e riorganizzare l'intero sistema sanitario. La Giunta Marrazzo sta facendo questo, per cui adesso è evidente che c'è una bella differenza, ecco, se mi posso permettere, tra una situazione come quella che ha trovato la Regione Lazio e una situazione come quella del Comune di Roma, dove appunto come è arrivata la nuova giunta ha annunciato che c'è stato che c'era un buco e da lì praticamente il Comune di Roma ottiene 500 milioni. Sì. Le cose sono un po' quelli a lei come paiono? Anche quelli credo, un po'. Ma io credo che sulla vicenda dei conti al Comune di Roma si è fatta grande confusione, non si può mettere tutti insieme, non si possono mettere appunto dei debiti non coperti, per cui proprio come abbiamo trovato noi, un vero e proprio buco con sì. Debiti che un'amministrazione comunale produce, deve fare, perché quando si fanno opere pubbliche appunto si accendono dei mutui eccetera. Al Comune di Roma mi sembra che si è messo tutto insieme e allora capisco anche che alcune regioni del nord o alcuni comuni hanno storto il naso rispetto a questo. E tra l'altro io prima di andare da Catania volevo tornare per un attimo dal sindaco Tosi. Allora, qualche ascoltatore, per esempio Andrea da Padova ci scrive: scusate ma io che sono operaio non so come arrivare a fine mese, queste cifre solo al sentirle non ce la faccio insomma ad ascoltare queste cifre, però si parla di cifre comunali. Per esempio diamone ancora un'altra, pare che a Roma il debito per ogni abitante sia di 2.577 euro, a Torino di più, pare 3.316 euro, cioè concretamente nasce in questo momento un bimbo, una bimba a Torino e in culla si porta un bel debito di 3.316 euro, senza colpi ovviamente. Sindaco Tosi, qualcuno ha detto, vabbè ma le critiche arrivano soprattutto alla Lega, insomma la Lega che ha voluto questo federalismo, e Formigoni e Moratti dicono sì, altro che federalismo, per il momento abbiamo visto delle elargizioni, delle prebende a chi andava male. Lo stesso Calderoli ha detto: da bergamasco mi ha fatto un po' male dare questi soldi a Catania e Roma, ma è l'ultima volta. Beh, ma infatti il problema è questo, cioè finché non c'è il federalismo, cioè questo non è che l'episodio di Roma e di Catania sia un fatto eccezionale, è la regola che c'è stata nel nostro paese per decenni. L'elenco che avete fatto voi in Calabria, più del 20% dei comuni sono in dissesto finanziario, perché evidentemente qualcuno li ha gestiti sapendo che alla fine lo Stato pagava a piedi lista, e quello che è successo fino adesso è questo. Adesso c'è da sperare, ma ha fatto piacere sentire le parole dell'assessore della Regione Lazio, perché sono stato assessore alla sanità un paio d'anni e quindi l'avevo vissuta anch'io drammaticamente quella vicenda, con quella ennesima ripiano a piedi lista dei debiti della Regione Lazio. Mi fa piacere aver sentito che finalmente si parla di chiudere degli ospedali, cioè, perché il problema non è il fatto di ripianare il debito della Regione Lazio, che prima o poi qualcuno avrebbe comunque ripianato, perché la sanità non è che puoi mandare in chiusura una regione anziché un comune. Il problema è mettere dei paletti e delle regole e farli rispettare. Se adesso la Regione Lazio comincia anche lei a chiudere ospedali, a razionalizzare e quindi a gestire la spesa in maniera corretta, quello è un esempio che è virtuoso e quindi va nella direzione del federalismo, che uno spende le risorse che ha senza spenderne di più. Gaetano Riva è l'assessore al bilancio di Catania. Bella gatta da pelare, assessore. Sì, ha ragione, ha perfettamente ragione. Però sono arrivati 140 milioni che hanno fatto un po' storcere il naso un po' da nord a sud, anche al sud. Guardi, il sindaco di Ragusa ieri era a Milano, ha detto non è questione di nord e sud, è questione di chi spende bene e chi spende male. Non capisco perché debbano arrivare i soldi a Catania quando qualcuno li ha sperperati. Sì, le posso dire solo questo: in questo momento siamo concentrati come giunta Stancanelli a cercare di risolvere il più presto possibile questo tipo di situazione di difficoltà oggettiva. D'altra parte, questi qua sono contributi che provengono poi da fondi per aree sottosviluppate, significa fondi che spetterebbero a regioni meridionali, comuni meridionali, quindi non toccano, diciamo, il complessivo. Non toccano il nord, lei dice. Regioni del nord o comuni del nord. Una cosa vorrei aggiungere però, sicuramente abbiamo bisogno di un po' di tempo per poter meglio programmare e razionalizzare la nostra spesa, cosa che ha fatto, su questo qua do ragione al sindaco Tosi, per esempio molti comuni del nord hanno saputo a tempo debito valorizzare il loro patrimonio immobiliare. So per esempio che moltissime città in difficoltà come le nostre hanno valorizzato i loro immobili e nel caso specifico hanno anche venduto, cosa che noi sicuramente affronteremo. Ecco, il nostro problema oggi è di poter avere il tempo di poter sistemare le cose e non penalizzare la città, che è un dissesto, penalizzerebbe parecchio. Questo però sì, il tempo va bene, però quei pagamenti a piedi lista a cui faceva riferimento il sindaco Tosi, lei ovviamente dice anche qui non si può mandare al dissesto una città come Catania con i catanesi che non c'entrano nulla, subiscono purtroppo questa situazione, però come si fa, voglio dire? Si fa con una sana programmazione. Noi ci stiamo mettendo tutto il nostro impegno per fare in modo che questo tipo di situazione possa essere risollevata. E poi aggiungo, se potesse, mi pare che qualcuno abbia già detto a livello regionale che nel caso in cui fra qualche tempo ci possa essere la possibilità, si potrebbero anche restituire questi soldi che a Catania sono stati dati. E magari. E quindi. No, lei già dice si potrebbero restituire, sarebbe uno splendido esempio, insomma sarebbe quasi una prima volta. Però dobbiamo avere il tempo di poterlo fare questo. 800 24 00 24, sindaco Tosi, ma è vero che c'è un po' di mal di pancia nella Lega? Cioè, ascoltando Radio Padania per esempio si coglie, insomma, molto la base leghista non gli piace molto quello che sta succedendo per quello che riguarda i finanziamenti. Ma guarda, io ho passato la campagna elettorale ultima, siccome sono tirato parecchio, a spiegare ai nostri, ma l'hanno capito, per quello c'è molto meno malumore di quello che si potrebbe pensare, ma non lo dico per sono della Lega, ma perché è nei fatti, a spiegare ai nostri che non si può pensare che col federalismo dalla sera alla mattina si tira una riga e fra sei mesi è tutto a posto, perché la situazione di Catania, anziché della regione Sicilia, che si trova ad avere adesso più di 20.000 dipendenti regionali, quando per dire la regione Veneto viaggia sui 3.000, cioè quelle sono situazioni che ci metterei anni a riportarle su una gestione virtuosa. Proviamo a pensare all'Italia, non è che è stato detto la chiudiamo, buttiamo via le chiavi, perché non era pensabile, bisogna avere senso pratico e proporre delle misure che abbiano comunque un'applicabilità. All'Italia è stato detto tiriamo una riga sui debiti e quelli vanno pagati, rimettiamo in sesto in modo che da ora in poi la gestione possa essere corretta e in qualche modo chiudiamo il passato. Lo stesso vale per le regioni, i comuni gestiti in un certo modo per decenni, come anche la sanità del Lazio. I buchi della sanità del Lazio, della Campania, delle decine dei comuni della Calabria che sono in dissesto, alla fine qualcuno li paga, vero? Non si può pensare che nessuno li paghi, qualcuno li pagherà, cioè li pagherà l'ente pubblico, lo Stato, e quindi alla fine noi infatti. Assessore Nieri, visto che lei ci deve anche lasciare, sono 3 miliardi quelli che attendete ora come sblocco, quelli che servono veramente. Sì, io questo non l'ho detto perché sennò ripetiamo sempre le solite cose. Noi siamo in una situazione complicatissima. Al momento dobbiamo dallo Stato centrale 5 miliardi e abbiamo dovuto procedere con un'anticipazione di cassa di 1,9 miliardi che pagano i cittadini della nostra regione, cioè non è poi tutto così, nonostante come appunto sto cercando di descrivere la Regione Lazio si è di fatto posizionata nella giusta direzione, questo viene riconosciuto anche dal Ministero dell'Economia, dal governo Berlusconi, nonostante questo noi stiamo attendendo da tantissimi mesi 5 miliardi di euro. Ecco, allora lo dico perché poi la situazione è un po' più complessa, non è che basta chiedere le tasse ai cittadini, razionalizzare la spesa, nonostante tutto poi c'è una situazione nel nostro paese molto molto complicata. Prima di dare la parola agli ascoltatori voglio salutare, ci ha raggiunto anche il presidente della provincia di Milano, Filippo Penati, buongiorno presidente. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Allora, gli ascoltatori, eccoli, Roberto da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. La mia domanda è molto semplice, mi domando come mai non venga applicata la legge fallimentare anche agli amministratori pubblici. Se non altro, un privato, una persona comune, quando è oggetto di fallimento semplice, minimo perde i diritti civili, non può votare, non può firmare assegni, tutte cose di questo tipo. Gli amministratori pubblici, come diceva Tosi all'inizio, invece vengono premiati, diventano onorevoli o senatori. Sì. Ieri sera da Fazio c'era Veltroni che pontificava su quello che ha elargito lo Stato, sugli presunti sperperi dello Stato, evitando casualmente di parlare del buco che ha lasciato a Roma lui e il suo predecessore. Sarebbe un po' come se domani Cragnotti o Tanzi andassero in televisione a spiegarci come mai è fallita Lehman Brothers. Grazie Roberto, c'è da dire che ci sono anche le inchieste, voglio dire, è vero, Scapagnini è stato eletto al Senato, complice anche una legge elettorale per cui non ci scegliamo i politici da mandare a Camera e Senato. C'è un'inchiesta in corso, voglio ricordare, su Scapagnini e su altre persone che hanno ovviamente amministrato Catania, c'è un'inchiesta e quindi ci sono anche dei reati ipotizzati. Marco dalla provincia di Savona, buongiorno. Buongiorno. Dica. Mi riallaccio molto al discorso del precedente ascoltatore, sì. Ascoltatore, volevo comunque chiedere una cosa all'assessore della Regione Lazio. Che ci ha lasciato, ma provi a fare la domanda. Comunque è una domanda che possiamo rivolgere anche a lei. Quanti sono i direttori generali rimossi e quanti sono i revisori dei conti che, per legge, devono certificare il bilancio delle ASL? Se in Italia non cambiamo il sistema mettiamo in piedi un sistema di meritocrazia, chi è bravo va avanti, chi sbaglia paga, come diceva prima Tosi. Non capiremo mai. Sì, nulla. C'è una sorta di impunità, è vero, la cifra è prossima, credo, allo zero delle persone punite. Vabbè, nella sanità del Lazio c'è stato lo scandalo di Lady ASL, no? Una dirigente, Giuseppina Iannuzzi, che è dirigente proprio di una ASL, che ha fatto tutti i nomi di anche politici che avrebbe corrotto, è stata condannata, è in carcere, insomma, qualcosa si è fatto. Però sulla questione dei conti effettivamente c'è una sorta di impunità. Presidente Penati, perché ha scritto questa lettera con Formigoni e Letizia Moratti, cioè a dire sostanzialmente basta regalie, è uno scontro nord-sud, è uno scontro virtuosi-viziosi? No, guardi, io avevo già accusato di questo scandalo dei soldi dati al comune di Catania prima ancora di questa lettera. Non è sicuramente uno scontro nord-sud, è un problema davvero di civiltà. Non è possibile, noi abbiamo a Milano, avremo l'Expo nel 2015, per gli anni 2010, 2011 e 2012 il governo ha stanziato 134 milioni per l'Expo, quindi dovremo aspettare l'anno prossimo per avere la prima tranche di una cifra assolutamente insufficiente e che rischia di rallentare tutta la realizzazione della grande manifestazione internazionale per cui Milano rappresenterà il paese, e arrivano 150 milioni in un'unica tranche al comune di Catania, che è in stato fallimentare per cattiva amministrazione. Questo io trovo scandaloso, dà un cattivo esempio, si dice a tutti che si può fare una spesa allegra, irresponsabile, e poi si è premiati perché qualcuno tappa i buchi. Questo non deve succedere, non deve succedere più, ed è scandaloso che sia avvenuto. Intanto, siccome abbiamo recuperato l'assessore Nieri, assessore al bilancio, ma infatti non lo dubitavamo, vuole rispondere all'ascoltatore. Io ho detto vabbè, c'è stata una vicenda penale ovviamente per quel che riguarda la Regione Lazio, però l'ascoltatore da Savona ha portato anche ex assessori, ex funzionari ASL nelle patrie galere, però quella è una vicenda insomma penale di corruzione, sì. Però laddove, non so, c'è un ammanco in bilancio, nel senso c'è una gestione dei soldi sia a livello comunale sia a livelli di ASL, insomma sia sempre soldi pubblici, siano sempre soldi nostri, il concetto è lo stesso. E poi è difficile andare a capire che sta, sì, interviene la Corte dei Conti, ma sappiamo che la Corte dei Conti poi non ha poteri per dire quello va in galera, voglio dire, se ha sbagliato ci devono essere i processi, le procure, e alla fine insomma sono poche le persone che pagano. Sì, questo è grave, perché in realtà adesso noi siamo realmente, attraverso il piano di rientro, proprio sotto controllo, nel senso che ci sono i tavoli di verifica puntuali. Ecco, la cosa che stupisce è che negli anni precedenti tutto è successo senza che neanche i revisori dei conti del Ministero dell'Economia si accorgessero appunto che nella Regione Lazio si stava accumulando un debito di quella natura. Però mi scusi assessore, le posso fare un appunto su questo? Non sì. A lei, è questo rimbalzare di colpe che si è sentito un po' da ovunque, giustamente anche l'assessore di Catania dice e noi che dobbiamo fare? Stiamo facendo il meglio, dobbiamo avere tempo. Lei dice abbiamo trovato un buco, un ammanco in bilancio, ma è, voglio dire, è il sistema che non va bene, cioè se anche lei fa un ammanco oggi probabilmente non pagherà quando arriverà il suo successore. Diciamo che credo che oggi la situazione è completamente diversa, nel senso noi abbiamo fatto una scelta che è quello, quando lei mi ha presentato ha detto che il mio assessorato è al bilancio, alla programmazione e alla partecipazione. Noi abbiamo fatto una scelta che è stata quella appunto di fare trasparenza. Se si scegliesse questa strada, e per cui oggi nel nostro sito internet è presentato il bilancio, c'è stata tanta polemica per esempio su tutta la vicenda dei derivati, noi è da tantissimi mesi che tutti i derivati e tutto il debito della regione è esposto su internet, per cui chiunque può sapere che cosa è successo. Abbiamo fatto una scelta, ad esempio, come siamo arrivati, non abbiamo più fatto, abbiamo messo al bando la finanza creativa, la Regione Lazio ha fatto da battistrada quasi al governo nazionale e agli altri comuni sulla finanza creativa. Ecco, se si fanno queste scelte è più difficile, io direi quasi impossibile, che si ricreino situazioni come perché lei dice se si ricreeranno è giusto che lei per esempio paghi? Io penso sì, che gli amministratori hanno una devono pagare. Gaetano da Napoli, buongiorno, un ascoltatore, dica. Scusi, ma sto salendo le scale per entrare in tribunale. Prego, prego. Allora, io mi sono occupato dal 93 a qualche anno fa del dissesto del Comune di Napoli. Ho scritto anche un paio di libri e assistevo 22.000 creditori. I creditori sono gli unici che pagano in questa situazione, perché gli enti, in quanto tali, e rispondo anche alla domanda di quell'ascoltatore che si chiedeva come mai non si applica la legge fallimentare, sì. In realtà non falliscono come un normale imprenditore, perché essendo enti devono continuare l'attività, sono solo liberati dai debiti, e questi debiti corrispondono a dei crediti di imprenditori, di fornitori, aziende, che improvvisamente si trovano senza risorse. La gravità del fenomeno che io ho descritto è questo: la proporzione tra nord e sud è così forte perché, mi fermo un attimo, sì. Perché il debito dei comuni è sempre aumentato, non soltanto per spese di bilancio, ma soprattutto per i debiti fuori bilancio. Che cosa sono i debiti fuori bilancio? Sono sostanzialmente delle spese che il comune si trova addosso all'improvviso, ad esempio si fa un esproprio nel 1980, esce la sentenza 15 anni dopo, 20 anni dopo, ed esce un debito sostanzioso che devono pagare gli amministratori dell'epoca in cui esce la sentenza, mentre il debito è stato contratto quando è stato deciso di fare la scuola, la strada e così certo. Via. Questo per dare un'idea dei debiti fuori bilancio. Questa massa di debiti fuori bilancio non è controllabile, perché nessuno è in grado di prevederla, perché deriva dal contenzioso, deriva da sopravvenienze. Alla fine che cosa succede? Succede che il comune rimane senza risorse e deve necessariamente intervenire lo Stato. Nel 1971, per i comuni del nord che erano indebitati come quelli del sud, ci fu la legge Stammati, che praticamente pianificò il debito dei comuni con spese totale carico dello Stato, con la Cassa Depositi e Prestiti. È tutto un po' cambiato, insomma, no, fino al 2001 era una cosa. Poi però sono arrivati a costruire fogne, scuole, ospedali 20 anni dopo, quindi l'indebitamento è nato 20 anni dopo, e quando è nato l'indebitamento dei comuni del sud lo Stato non è intervenuto, ma ha fatto questa vergognosa legge del dissesto che cosa fa in buona sostanza? Penalizza semplicemente il ceto creditorio, perché Napoli per esempio si è chiusa dopo 13 anni di dissesto, i creditori hanno avuto il 60% dei crediti al netto di interessi, sì, ma anche, una battaglia, anche se lei avrà letto il Sole 24 Ore di recente, e il dissesto di Napoli rischia dove si era chiuso di riaprirsi, questo almeno scriveva Mariano Maugeri di recente. Sindaco Tosi, l'ascoltatore diceva la questione della finanza derivata, molti comuni hanno giocato toccato, voglio dire. La Moratti, per esempio, ha messo in piedi un pool di legali, ha detto siamo stati, la colpa è delle banche, insomma, ci ha raggirato. Anche qui ci dovrebbe essere una responsabilità per chi ha usato i soldi in maniera creativa? Dovrebbe esserci, sì, nel senso che noi, per dire, li abbiamo ereditati perché li ha fatti la precedente amministrazione. No, non mi dica anche lei così, perché sennò tutti è colpa di quello che è arrivato prima. Ma la verità, sono stati firmati i contratti per i derivati nell'aprile del 2007, quando a maggio si andava a elezioni. Un mese prima delle elezioni hanno chiuso i contratti e li hanno firmati, quindi ce li siamo trovati sul propone. E adesso noi abbiamo un consulente che ci sta dando un'occhiata per vedere come uscirne, perché ovviamente noi vogliamo uscirne, ma per un fatto, non per cambiare quello che ha fatto chi c'era prima di noi, per non correre rischi. Cioè, se riusciamo a uscirne senza farci del male, ne usciamo. Lì il problema è che doveva essere vietato, cioè doveva essere vietato dal legislatore. Evidentemente qualcuno anche lì non se n'è accorto che doveva essere vietato dal legislatore tassativamente per i comuni assumere strumenti finanziari che prevedano un rischio, perché con i soldi pubblici, con i soldi tuoi, puoi fare quello che ti pare, bruciarteli, ma con i soldi pubblici non puoi correre dei rischi. Su questo non ci sono dubbi, invece ne sono corsi tantissimi, sono tantissimi comuni oggi esposti per cifre enormi per i derivati. Presidente Penati, c'è l'ascolta l'assessore al bilancio di Catania, Gaetano Riva. Lei, insomma, ha già detto, non è una questione né di uomini né di persone, poi voglio dire, Gaetano Riva è arrivato adesso con la nuova, certo, con la nuova giunta Stancanelli. Che effetto le fa cavalcare dei linguaggi, qualcuno ha detto il ritorno dei linguaggi leghisti, insomma il nord contro il sud, anche se non è così, però insomma il problema che ha posto Moratti e Formigoni più o meno è questo. Guardi, qui non è un problema che di leghismo o di altro, qui c'è un problema serio. C'è un'area del paese, parlo dell'area metropolitana milanese, che è quella più avanzata, che anticipa anche i fenomeni che poi si sviluppano all'interno del paese, e qui stiamo vivendo una fase critica. La crisi finanziaria porta alle porte una crisi economica, sta penalizzando notevolmente le famiglie. Il caro vita, che è già un problema che in questi ultimi anni si è ulteriormente accentuato, porta ad un impoverimento delle famiglie milanesi, del ceto medio. Siamo di fronte al salariato povero, cioè alla presenza di sacche di insicurezza sociale in presenza di due redditi da lavoro dipendente. Siamo di fronte ad un fenomeno nuovo. Nell'area al nord bastava trovare un lavoro perché non si era più poveri, oggi non basta avere un lavoro e un reddito, e molte volte con due redditi, magari in presenza di uno o due figli, con il caro dell'abitare, il caro vita nell'area metropolitana milanese, non si arriva a fine mese. Siamo di fronte a questo fatto e diamo un esempio che, anziché sostenere le azioni degli enti locali, che devono in questo momento sostenere famiglie e imprese, anche nell'area cosiddetta più ricca del paese, si danno soldi a pioggia in modo indiscriminato, 150 milioni a Catania a coprire un buco senza chiedere nessuna responsabilizzazione su quel fenomeno. Sono previsti dal 2010 500 milioni all'anno per Roma, per la città di Roma. Qui mancano gli investimenti per le infrastrutture, i tagli ai comuni porteranno una riduzione dei servizi e un aumento delle tariffe. Però che facciamo, Presidente? Mica possiamo lasciare Catania senza luce o con l'immondizia? Cioè, lei dice dovrebbero essere sia loro... La si commissaria. Allora a questo punto la si commissaria, si diano dei soldi per risanare quel bilancio e si costituisca un prestito al comune di Sestato. Il commissario, come si fa nelle aziende che devono essere, per cui si evita il fallimento, ma si va verso la gestione commissariale, si mette un commissario, si chiude, si ripianano i debiti e si restituiscono i soldi. Assessore Riva, che ne pensa della proposta di Penati? Dice soldi va bene, ma mettiamo un commissario, visto che... Forse l'assessore che non si può commissariare, si va in dissesto. Dissesto significa, come diceva poco fa qualche ascoltatore, è una situazione molto più particolarmente negativa per la cittadinanza, la collettività, la realtà economica, l'economia reale a cui facevo riferimento poco fa l'assessore. Significa alzare tutte le tariffe, le imposte locali saranno aumentate, i creditori saranno pagati al 40%, l'economia reale già in difficoltà in queste zone sarebbe ancora più penalizzata. Quindi credo che sia un'operazione, secondo me, da considerare molto attentamente. Intanto, io volevo rispondere, se mi consente, però, volevo dire sulla finanza derivata. Guardi che molte città del nord hanno avuto problemi con la finanza derivata. E come no, li avranno sicuramente, sa come le hanno risolte? Giustamente, perché sono situazioni che a volte un'amministrazione nuova si trova sul groppone, attraverso la vendita di beni immobiliari che loro possiedono possibilmente e altri no. Finanze derivate che sono state fatte in gestione molto allegre. Questo sì, mi lasci dare un ascoltatore e poi voglio tornare ancora da lei, assessore. Filippo da Roma, buongiorno. Buongiorno, mi avete anticipato, però il discorso sostanzialmente è questo. Io da un politico, da un amministratore vorrei un maggior senso di responsabilità. Cioè, qui vedo che c'è una miopia da parte degli amministratori che con questi strumenti di ingegneria finanziaria fanno cassa oggi per far fronte alle spese e ipotecano il futuro quando loro non ci saranno più, sì, ma ci sarà la nuova amministrazione. È una maggiore responsabilità, questo è auspicabile, caro Filippo. Assessore, io vorrei tornare un attimo da lei, mi dica che questa notizia non è vera, io l'ho letta nei giorni scorsi su Repubblica, credo. Il direttore generale del comune di Catania, che è stato chiamato dal neosindaco Stancanelli, Maurizio Letterio Lanza, per 3 mesi, in un comune insomma che dove sappiamo i conti sono quelli che sono, in 3 mesi guadagnerà 750 euro al giorno per un totale di 66.855 euro, è vero? Assessore? Mi perdoni, siamo in una situazione in cui, come dicevo poco fa qualcuno... Ma mi dica prima se è vero o no, se la notizia... Non è totalmente vera, ma parzialmente vera, perché è uno stipendio molto più basso rispetto a quello, cioè, che si dice più sui o meno, giornali. Se si può sapere. Il lordo è molto più basso, non è quella cifra là. Questo è il lordo? Io ho dato il lordo. Sì, esatto. Il lordo è 66.855 euro. No, è più basso il lordo, dicevo. Il lordo è più basso rispetto a quello che si legge sui giornali. Ma secondo me, però, mi perdoni, quello che è importante oggi è un'altra cosa, che poco fa accennava qualcuno. Noi siamo in una fase in cui dobbiamo programmare e cercare di uscire da questa situazione così difficoltosa. Significa programmare per bene le entrate tributarie e tutto, senza aumentare di un minimo di grado di pressione fiscale tributaria. Per fare questo bisogna essere organizzati, occorre quindi essere efficienti nella macchina amministrativa. Per essere tale bisogna cercare di trovare tutte le risorse umane che siano capaci, sì, di uscire fuori da questo tunnel. Però questo stipendio effettivamente... Questo significa produttività. È chiaro che se per esempio questi signori, questi soggetti che sono chiamati a capo di questa amministrazione per uscire dal tunnel non riuscissero a trovare queste soluzioni, devono poi chiaramente cambiare questo sì, però assessore mi perdoni su questo, poi io devo chiudere, insomma, meno di quanto di quei 66.855? credo che sia intorno ai 12.000 euro lord, quindi significa comprensivi di oneri riflessi, quindi è chiaro che il netto è molto più basso. Ma da 66.000 a 12.000, vabbè, appureremo questa cosa, assessore, eventualmente poi la richiameremo. Io mi devo fermare qui ringraziando tutti, Filippo Penati, Flavio Tosi, Luigi Neri e Gaetano Riva, e in redazione ricordo Alessandro Marco Tulli ed Elisabetta Fusconi, Giorgio Matte in regia. Scriveteci, viva voce, @radio24.it, a domattina.